Ehi, ed è per questa guaglionama brutta che va così. O va così e così. Un altro giorno ed ecco un'altra sveglia nella testa. Un altro suono nelle orecchie e nella mente di chiesta. Un'altra volta solo, la mia mente viaggia in frista. Un'altra sensazione di vuoto da appannare le mie gesta. Ritrovo me stesso, sono nella pace dei sensi. Scrivo una strofa e penso a momenti intensi. Intanto mi specchio e mi chiedo, ma tu a cosa pensi? Siamo solo io e te, non c'è bisogno che menti. Un altro giorno, ancora un'altra sveglia nelle orecchie. Un'altra alba ed alla base storie vecchie. Un'altra volta t'ho sognata a lasciarmi nelle secche. Un'altra volta sono solo a meditar sulle mie pecche. Cerco ancora la pace anche se tu non ci sei, perché la pace dei sensi per me quando sono con lei. Ma quale pace, un tormento perso nei pensieri miei. Mi specchio di nuovo ma la domanda ora è chi sei. Pace per i sensi perché gli fa così e così. Vive la sua vita come scene di un film. I fotogrammi separano attimi e giorni. Pace per i sensi gustata a piccoli sorsi. Pace per i sensi perché gli fa così e così. Vive la sua vita come scene di un film. I fotogrammi separano attimi e giorni. Pace per i sensi gustata a piccoli sorsi. Voglia di scrivere e fumare ma tante cose da fare. Cerco pace in un momento in cui la testa va a puttane. Nel bene e nel male farai cambiare la sensazione per la quale ti sembra d'aver sbagliato direzione. Arriverà quel giorno in cui seduti con Nettuno rideremo nel profondo proprio lì dove nessuno più potrà toglierci d'osso. Voglia di star calmi, per ora il mare calmo è solo parte di quei sogni. Sogni d'una pace, d'un equilibrio interiore, d'una casa riscaldata. Non un sole ma persone che hanno tutti gli sguardi puntati in alto verso il cielo. Quando troverà risoluzione in un mistero. Pace per i sensi nell'abbraccio di una madre. Nello sguardo di una persona che ti ha insegnato a amare. Amare i mari corrono come percorsi percorribili. Da forti figli del futuro fatti anche di sogni e di incubi. Pace per i sensi perché gli va così e così. Vive la sua vita come scene di un film. I fotogrammi separano attimi e giorni. Pace per i sensi gustata a piccoli sorsi. Pace per i sensi perché gli va così e così. Vive la sua vita come scene di un film. I fotogrammi separano attimi e giorni. Pace per i sensi gustata a piccoli sorsi. O va così e così. Aha. Pace è una parola che esce quasi da sola. La cerchi da sempre ma non sai chi la trova. Se è la pace che cerchi non avrai certo la prova. E la prova che cerchi non dà la pace da sola. Pace è una parola che esce quasi da sola. La cerchi da sempre ma non sai chi la trova. Se è la pace che cerchi non avrai certo la prova. E la prova che cerchi non dà la pace da sola. Pace per i sensi perché gli va così e così. Vive la sua vita come scene di un film. I fotogrammi separano attimi e giorni. Pace per i sensi gustata a piccoli sorsi. Okay.